Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Negli Stati Uniti non è raro che alcune città abbiano nomi che richiamano luoghi europei. Nell'area cittadina di Boston, ad esempio, c'è una vasta zona chiamata Cambridge, in omaggio alla celebre Università Britannica. Non è un caso, quindi, che proprio a Cambridge si trovino due tra le maggiori università degli Stati Uniti e del mondo intero. Si tratta del MIT, che sta per Massachusetts Institute of Technology, e di Harvard. Proprio quest'ultima, secondo una recente classifica accademica, la più importante università del pianeta, è il centro della storia che vi andiamo a raccontare oggi. Harvard, settembre 2002. E quindi con grande piacere auguro a tutti voi un buon semestre di studi. Quella che avete sentito è la conclusione del discorso inaugurale di Lawrence Summers, presidente della Harvard University. Inizia un nuovo semestre di lavoro per studenti e docenti nella prestigiosa università americana. Qui infatti non ci sono gli anni accademici, ci sono i semestri. Un sistema molto flessibile e molto pratico che i ragazzi provenienti da tutto il mondo sembrano apprezzare. In questo primo giorno ad Harvard, dopo il discorso del presidente, gli studenti prendono posto nei propri alloggi, iniziano a familiarizzare con l'ambiente e a conoscersi tra loro. Ci sono due termini curiosi di origine anglosassone di uso molto comune anche nella nostra lingua. Il primo, più celebre, è nerd. La parola nerd solitamente indica uno studente un po' sfigato, intellettualmente molto dotato e straordinariamente abile con i computer, tanto che essi diventano di fatto la sua unica compagnia. Il secondo termine è geek. Ha una connotazione più positiva e serve a indicare giovani affascinati dalla tecnologia e in qualche modo dipendenti da essa. I nostri personaggi di oggi rientrano perfettamente nel profilo tracciato fin qui. Entrambi sono ad Harvard nel 2002. Entrambi sono un po' nerd, un po' impacciati con le ragazze, un po' goffi, ma intellettualmente molto dotati. Entrambi sono geek, affascinati dalla tecnologia. Andiamo a conoscere il primo. Il suo nome è Eduardo Saverin. Eduardo Saverin. Cosa hanno in comune il cantante dei Sepultura Max Cavalera e le attrici Natalie Morales e Jordana Brewster? Beh, fanno parte dei cosiddetti Brazilian Americans, i brasiliani d'America, ovvero gli immigrati provenienti dal paese sudamericano trapiantati negli States. La colonia più vasta e numerosa si trova in una delle città più movimentate della costa orientale, Miami. Miami è una città surreale, eccessiva, sfrenata, contraddittoria. È una location dalle mille anime, in grado di far coesistere manager e malavitosi, ricchi e poveri, ma soprattutto americani di tutte le etnie. Qui, all'inizio degli anni 90, va a rimpolpare le fila della colonia brasiliana anche la famiglia Saverin. I Saverin vengono da San Paolo, sono una famiglia estremamente ricca e si dice forse collusa con la malavita brasiliana. La mia famiglia in effetti era molto benestante. È stata una fortuna, perché mi hanno potuto iscrivere alle scuole migliori del paese. In realtà il padre, almeno ufficialmente, possiede una grossa azienda di esportazioni. Le origini della famiglia sono ebraiche. Proviene dall'Europa, continente da cui è fuggita negli anni tragici dell'Olocausto. Dopo il successo in Brasile, forse a causa di qualche amicizia sbagliata, il nome del piccolo Eduardo viene segnalato dalla polizia come possibile vittima di un rapimento. I Saverin fanno di nuovo le valigie. Destinazione Miami. I primi anni negli States sono stati difficili. Ho dovuto imparare da zero una nuova lingua e adattarmi a quello strano mondo a sé che è Miami. In Florida, Eduardo frequenta scuole brillanti, come le celebri Gulliver Schools. Poi, quando arriva il momento dell'università, si iscrive ad Harvard. Un ateneo esclusivo come quello di Harvard, al di là della didattica, della bravura e del prestigio dei professori, ha alcune caratteristiche che lo rendono simile a una setta. Ritualità, cerimonie, uniformi, divise, tradizioni. Chi si può permettere gli oltre 300.000 dollari di tasse universitarie necessari a entrare nel più celebre degli atenei americani deve prepararsi a farsi risucchiare da un vorticoso meccanismo di culti e di funzioni. Una delle strutture settarie più ramificate di Harvard sono i club esclusivi che ospitano e regolano la vita sociale degli studenti. Si chiamano Final Club. Se ne contano una decina, ma sono strutture tutt'altro che democratiche. Chi riesce ad accedervi sicuramente godrà di altissima considerazione nelle relazioni interpersonali all'interno dell'ateneo. Chi ne rimarrà fuori vivrà quasi da emarginato. Il più ambito ed esclusivo di questi circoli si chiama Phoenix Club ed è un circolo tutto maschile. A questo aggiungete che queste strutture spesso sono dominate da razzismo, snobismo, classismo. Per tutti questi motivi, Eduardo Saverin, di origine brasiliana, al suo arrivo ad Harvard nel 2002, non trova spazio in questi club e si ritrova di nuovo nella condizione di emarginato. Eduardo Saverin è un ragazzo schivo, timido. Ha sopportato sin da piccolo la condizione dello sfollato, dell'immigrato che deve costruirsi pazientemente un profondo tessuto di integrazione. C'è riuscito, nella folle Miami, la città americana che l'ha visto crescere. Ad Harvard, nel suo primo semestre, rivive questa condizione e la sopporta diligentemente. Nonostante il bell'aspetto, nonostante una certa presa sulle ragazze, nonostante brillanti qualità scolastiche, in particolare nella matematica. L'esclusione dai club ad Harvard certo crea qualche problema a tutti, però diciamo che io me la cavavo lo stesso, non era certo un'ossessione. Frequentavo qualche ragazza e soprattutto mi sono presto trovato un gruppetto di amici fuori dai final, che come me avevano passione di carattere, scientifico, sì. Eravamo un po' nerd, chi più chi meno. Io ero un vero mostro con la matematica. Il giovane brasiliano non è particolarmente affascinato dalla tecnologia, non è bravo coi computer, ma oltre alla matematica ha un'altra passione chiara ed evidente, i soldi, forse ereditata dal padre. Sembra comunque innato in Eduardo il sogno di poter accumulare milioni di dollari, uno dei suoi grandi obiettivi nella vita. Di questo e di altro, Eduardo parla con quegli amici che conosce ad Harvard e che inizia a frequentare alla fine del 2002. Questi amici si chiamano Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Poi ce n'è un altro ragazzo che fa parte di quel piano che il destino, imprevedibile come sempre, ha preparato per Eduardo. Si tratta di un giovane di buona famiglia che negli anni è diventato un vero e proprio genio dei computer, il classico nerd cresciuto a giochi di ruolo e videogames. È il nostro secondo personaggio di oggi. Il suo nome è Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, al contrario di Saverin, viene dal cuore dell'America, dallo stato di New York, in particolare dalla città di White Plains, dove è nato nel 1984. È il primo di quattro figli. La sua è una buona famiglia, la madre è fisioterapista, il padre è dentista. Mark, sin da giovanissimo, mostra uno spiccato interesse per la programmazione, per i computer e per i videogame. La prima attestazione della sua abilità coi computer arriva quando è ancora un ragazzino. Il padre dentista ha bisogno di migliorare la schedatura e l'archivio dei suoi pazienti. Mark gli crea un database digitale efficiente e completo. Ha solo 13 anni. Così, quando ha 18 anni Mark approda ad Harvard, è proprio il prototipo del nerd. Aspetto un po' fragile e imbranato, scarsa propensione ai rapporti sociali, straordinarie abilità coi computer, fatta però più di istinto che di una reale preparazione. Anche Zuckerberg, naturalmente per il suo aspetto un po' sfigato, viene escluso dai club esclusivi, proprio come Saverin. E proprio con Saverin stringe un bel rapporto di amicizia pochi mesi dopo l'inizio dell'università. Ci siamo conosciuti, mi pare, ad una festa, dove abbiamo iniziato a chiacchierare. Insieme a noi c'erano altri due ragazzi con cui abbiamo iniziato a frequentarci spesso. Oltre ai club, c'è un altro dettaglio che caratterizza le università americane che ci interessa particolarmente da vicino. Si tratta di un servizio chiamato The Facebook. è un portale di foto, di volti, di nomi che cataloga tutti gli studenti di tutti gli anni di corso transitati dall'Ateneo. È un sito ufficiale, istituzionale, sorvegliato. Un sito che dovrebbe servire più che altro per motivi di lavoro. In realtà, per molti studenti, tra cui anche Mark, Edoardo e la loro compagnia, serve come catalogo da sfogliare per cercare le ragazze più sexy a cui chiedere, naturalmente senza successo, di uscire. Il 23 ottobre del 2003, quasi 7 anni fa, è il giorno di una bravata che passerà alla storia e che fa capire quanto l'incontro tra Zuckerberg e Saverin cambi senza appello le vite di entrambi. Una ragazzata difficile da ricostruire con esattezza, nonostante le certezze ostentate in merito da libri e film, perché esistono in realtà versioni controverse e contrastanti tra loro. Diciamo che di sicuro si tratta di una bravata che ha il sapore della vendetta verso quelle ragazze che snobbavano i quattro amici. Tra un sorso di Bex e l'altro, Mark Zuckerberg viola i ridicoli sistemi di sicurezza del Facebook di Harvard e scarica le foto di tutte le ragazze. Poi isola queste foto, le mette tutte su un portale che chiama The Face Mash. Crea anche dei sondaggi, mettendo in competizione tra loro foto di ragazze diverse. Chi è la più sexy? Saverin lo supporta, scrivendo rapidamente tutti gli algoritmi del sito, quella parte su cui Zuckerberg era debole. In poche ore, il portale diventa il più visitato dell'Ateneo. 450 contatti nei primi 60 minuti, oltre 22.000 click sulle singole immagini. Naturalmente i ragazzi finiscono nei guai. Il sito FaceMash ha utilizzato foto illegalmente sottratte dai portali di 9 collegi degli studenti di Harvard. Le ha disposte a coppie sul proprio spazio web, lanciando sondaggi su chi fosse più sexy. Per questo i ragazzi meritano una punizione esemplare. Zuckerberg e Saverin se la cavano in realtà con una bella lavata di testa e la minaccia che se dovesse accadere nuovamente una cosa del genere, verranno espulsi dall'Ateneo. Il successo di FaceMash, però, ha due conseguenze fondamentali. La prima è quella di rilanciare i ragazzi sul piano sociale, permettendo loro di avere quel successo a cui non riuscivano ad accedere. Secondo, instilla nelle loro teste brillanti un'idea chiave, cioè quella di riproporre in grande, con le dovute modifiche, un servizio di questo tipo. The Facebook. Questo è il nome che viene scelto per il lancio di un nuovo portale. Più o meno un anno dopo, tutto è pronto. Gli studenti di Harvard si possono iscrivere, creare una propria pagina personale, gestirla direttamente controllando nel dettaglio le informazioni da condividere con gli altri studenti. Zuckerberg scrive il sito. Saverin, che ha una mente più da businessman rispetto all'amico, ci mette i soldi per acquistare i server necessari. $15.000 versati su un conto comune sono la cifra che serve per pensare in grande. In poco tempo i numeri li premiano. Più della metà degli studenti di Harvard si iscrive in meno di una settimana. In 2 mesi la Boston University, il MIT, la New York University fanno richiesta per entrare nel progetto. A ruota arrivano tutte le maggiori università degli States e del Canada. Gli sponsor piovono e nell'estate del 2004 Facebook diventa una società. Gli sfigati nerd esclusi dai club di Harvard, fatti incontrare dal destino, hanno trovato il loro riscatto. Facebook è destinato a trasformarsi, così come il rapporto tra Zuckerberg e Saverin, tra poco, a destini incrociati. I'm becoming less defined as days go by, fading away. Well, you might say I'm losing focus, kind of drifting in the abstract in terms of how I see myself. Sometimes I think I can see right through myself. Sometimes I think I can see right through myself. Sometimes I can see right through myself. Oggi a Destini Incrociati siamo ad Harvard, una delle più importanti università degli Stati Uniti e del mondo intero. Qui, a cavallo tra il 2002 e il 2003, si incrociano i destini di Eduardo Saverin e di Mark Zuckerberg. Entrambi ai margini della vita sociale dell'Ateneo, i due ragazzi prima forzano letteralmente i sistemi di sicurezza del portale dell'università, rubando le foto delle ragazze più sexy e mettendole su un portale di loro creazione. E dopo essere stati duramente ammoniti per questo dal presidente di Harvard, Lawrence Summers, decidono di creare un servizio gratuito per gli studenti, The Facebook, un portale per favorire le comunicazioni fra i ragazzi che frequentano Harvard. È un successo clamoroso. In poco tempo, il servizio viene allargato a tutte le maggiori università degli Stati Uniti. Piovono sponsor, Facebook diventa una società, il riscatto dei nerd è definitivamente completato. Palo Alto, California. Siamo nella porzione nord-occidentale della mitica Bay Area di San Francisco, una delle zone culturalmente e scientificamente più calde degli States. Per intenderci, non siamo troppo distanti dalla Silicon Valley. Qui, dal giugno 2004, ha sede la Facebook Incorporated. All'inizio, oltre a me, c'erano Eduardo Saverin, che si occupava degli aspetti legati al business, Dustin Moskovitz, che era un grande supporto alla programmazione, Andrew McCollum, che si occupava della grafica, e Chris Hughes, che gestiva con me ciò che riguardava la promozione del sito. Quelli citati da Mark Zuckerberg sono tutti studenti di Harvard. A questi si aggiunge Sean Parker, compagno di liceo di Mark in qualità di presidente. Un team inizialmente vincente, capitanato nel concreto proprio dallo stesso Zuckerberg e da Saverin. Pochi mesi dopo, il portale viene esteso anche agli studenti delle scuole superiori. Viene tolto l'articolo The dal nome e il dominio Facebook viene acquistato per la cifra di $200,000. Il passo successivo su idea di Saverin porta dagli studenti agli impiegati. Vengono coinvolte alcune aziende come Microsoft e Apple, i cui dipendenti possono entrare e iscriversi al portale. La struttura del sito rimane chiusa, ma ancora per poco. Il passo infatti è breve e porta alla completa liberalizzazione delle iscrizioni. Un anno dopo, il 26 settembre del 2006, qualunque individuo con età superiore ai 13 anni e in possesso di un indirizzo email valido può iscriversi. Il piccolo portale nato per rimorchiare le ragazze di Harvard è diventato un colosso internazionale dei media e in breve diventerà il social network più utilizzato al mondo. Imboccata la strada per il successo, Saverin e Zuckerberg, fin qui indispensabili l'uno all'altro, sono già in rotta di collisione. I primi contrasti tra Saverin e Zuckerberg risalgono all'estate 2005. In quei mesi il giovane brasiliano si trasferisce a New York per uno stage presso la famigerata Lehman Brothers. I due tentano di mantenere solido il rapporto a distanza, ma qualcosa va storto. Nella divisione dei compiti, Zuckerberg chiede a Saverin di raggiungere tre obiettivi: rendere solida la struttura della società, reperire un sempre più consistente numero di fondi e creare un modello di business originale e innovativo. Il risultato, invece, sono una serie infinita di incomprensioni, di sospetti e di malintesi. La pietra dello scandalo si chiama Job Boozle. È un portale che Saverin sviluppa in gran segreto a New York. Un servizio destinato agli studenti che dovrebbe teoricamente aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro. Progetto lodevole, non c'è che dire. Peccato che Saverin decida di pubblicizzarlo proprio attraverso Facebook, inserendo nel social network il banner del proprio sito all'insaputa di Zuckerberg. Hai sviluppato Job Boozle, pur sapendo che Facebook prima o poi avrebbe percorso anche quella via, dato che ne avevamo parlato. Ci ha sorpreso molto, sai, trovare il banner del tuo sito dentro Facebook, poiché si tratta di qualcosa che in fin dei conti hai creato in netta competizione con Facebook, e questa per noi è una mossa molto scorretta. Mi riferisco soprattutto al fatto che hai messo un fottuto annuncio, e per di più gratis, su Facebook. Con questa mail, spedita da Zuckerberg a Saverin, la frattura tra i vecchi amici diventa insanabile. La rottura definitiva è solo questione di tempo. C'è una strana categoria di persone nella storia che potremmo definire i grandi perdenti. sono coloro che per una scelta incredibilmente sbagliata vengono tagliati fuori dal successo proprio pochi passi prima di averlo raggiunto. Qualche nome? Beh, iniziamo da Pete Best, ex batterista dei Beatles, che lascia la band prima del successo perché riteneva che mai avrebbe potuto sfondare. Love, love me do. You know I love you. Tom Selleck, che ha rifiutato la parte di Indiana Jones perché riteneva il personaggio privo di chance di successo. E che dire di Ron Wayne, terzo fondatore di Apple, che ha venduto la sua quota per $800 pensando che la società non avrebbe mai sfondato. O di Sylvester Stallone, che in un momento poco felice della sua carriera rigetta con disprezzo la parte principale in Beverly Hills Cop, dicendo «Neanche un negro farebbe un film così». E invece Eddie Murphy l'ha fatto e ci ha guadagnato dollari a palate. Edoardo Saverin, con la sua mossa intempestiva che lo spinge a uscire da Facebook subito, non credendo nelle potenzialità di quel progetto che lui stesso aveva contribuito in maniera determinante a far nascere, si aggiunge al nutrito gruppo dei grandi perdenti, abbandonando Facebook poco prima che 500 milioni di persone si riversasse sul social network. Non è però la fondazione di Joe Buzzle la goccia che fa tracimare il vaso. Ciò che fa perdere nel 2006 la pazienza a Zuckerberg e soci è la mancanza di fondi. Avrebbe dovuto essere l'obiettivo principale di Saverin e invece da New York non arriva nemmeno un centesimo. A Palo Alto invece giunge presto la somma colossale di $240 milioni, versata da Microsoft, che valuta con questa esorbitante cifra poco meno del 2% di Facebook. Zuckerberg fa un ultimo tentativo: spostare Saverin in California, offrendosi di coprire interamente i costi degli spostamenti aerei. Tutto inutile. Saverin è ormai sprofondato nella vita d'affari newyorkese e non si rende conto dell'occasione che gli sta sfuggendo di mano. È ormai un peso enorme per Facebook, un peso che possiede una quota importante della società. Sta per iniziare una dura battaglia legale e finanziaria. Tra poco, a destini incrociati. Destini incrociati. L'incontro fra Mark Zuckerberg ed Edoardo Saverin, i due fondatori di Facebook. Questa è la storia di oggi di Destini Incrociati. I due ragazzi che, grazie alla somma delle loro qualità, hanno dato vita a una realtà importante come il social network più utilizzato del web, entrano in rotta di collisione nel momento in cui il progetto assume proporzioni multimilionarie e Saverin inizia a venire meno agli accordi presi, arrivando addirittura a sfruttare Facebook per pubblicizzare attività personali. Nella testa di Mark Zuckerberg e negli altri soci matura la convinzione di farlo fuori, nonostante egli possieda una quota rilevante della società. Pochi mesi prima, Zuckerberg aveva coinvolto nella società un suo vecchio compagno di liceo, Sean Parker. Per capire di chi stiamo parlando, Sean Parker è stato il creatore di Napster, il primo software per il file sharing peer-to-peer, chiuso nel 2001 dopo infinite controversie legali e una multa colossale da pagare. Sean Parker riesce a ottenere finanziamenti da Peter Thiel, fondatore di PayPal. Oltre ai soldi, Parker ricava da Thiel un suggerimento vincente e definitivo: creare una nuova società, comprare quella vecchia e varare un aumento di capitale studiato su misura per far crollare drasticamente la quota posseduta da Saverin, dal 30% a meno del 10%. È il 7 gennaio 2005. La ricapitalizzazione della società va in porto. È il momento in cui, formalmente, la percentuale di Saverin scende. Con la diminuzione della quota, il giovane brasiliano perde anche le proprietà intellettuali del progetto, che passano a Zuckerberg. Nell'aprile del 2005, Saverin viene ufficialmente licenziato e costretto a lasciare ogni incarico. I tempi di Harvard sono lontani. I due amici, che avevano tracciato insieme un percorso esaltante di successo e riscatto, si ritrovano l'uno contro l'altro, in una battaglia legale senza esclusione di colpi. Ciò che vuole Edoardo è molto semplice, non solo denaro, ma il riconoscimento di essere tra i fondatori di quel progetto. La crescita anno per anno di Facebook è stata spaventosa. Ha raggiunto i 100 milioni di utenti nel 2008, mentre oggi ne conta quasi 600. Il sito creato da Zuckerberg e Saverin è diventato il più cliccato della rete, ancor più degli stessi motori di ricerca. Il social network si è imposto anche in mercati diversi da quello occidentale, introducendo radicali cambiamenti a livello sociale e nelle abitudini quotidiane di milioni di giovani. Io credo che in realtà Facebook sia uno strumento destinato per incrementare la socialità delle persone. Non è stato pensato per rendere virtuali le amicizie e gli incontri, ma al contrario, per incentivarli. L'incontro tra Zuckerberg e Saverin ad Harvard, ormai 8 anni fa, ha portato alla nascita di questo eccezionale fenomeno di costume, ma ha anche avuto come conseguenza la distruzione di un rapporto personale e di amicizia. Della causa intentata da Saverin a Zuckerberg e Facebook non si conoscono molti dettagli. Si sa solo che il giovane brasiliano, dopo l'estromissione dalla società, ha deciso di percorrere le vie legali per vedersi riconosciuti alcuni diritti che considerava fondamentali. Le certezze che possiamo trarre in merito dipendono dal fatto che poco più di un anno fa, proprio sul sito di Facebook, nella pagina di presentazione del servizio, il nome di Edoardo Saverin è riapparso accanto a quello dei soci fondatori. Saverin si è rifiutato di lasciare dichiarazioni ufficiali a giornalisti e cronisti, ma allo stesso tempo ha fatto molto di più. Ha raccontato la propria versione dei fatti, non proprio attendibile per la verità, al giornalista Ben Mezrich. Si dice anche finanziando in parte l'uscita del libro. Quindi il libro di Mezrich è diventato un film, in uscita proprio in questi giorni nelle sale italiane, nel quale la figura di Zuckerberg viene ritratta in maniera non proprio fedele alla realtà. Egli appare come un crudele, spietato e cinico giovanotto interessato solo al denaro e al successo personale. Nonostante sia accertato che Zuckerberg abbia effettivamente dei biglietti da visita nel portafogli su cui c'è scritto «Sono un amministratore delegato, puttana», la sua personalità è indubbiamente più complessa e sfaccettata di quanto appare sul grande schermo. A conti fatti però, Saverin è il vero vincitore di questa vicenda. Inizialmente estromesso dalla società, attraverso la riabilitazione seguita alla causa, è rientrato in possesso del 5% di Facebook. $1.700.000. Questo significa che investendo solo $15.000 nel 2005, ne ha realizzati in 5 anni 66.000 volte tanto. E senza muovere un dito, dato che i motivi della sua estromissione risiedevano proprio nella sua completa passività rispetto al progetto del social network. Senza dubbio, si tratta di uno dei migliori investimenti sbagliati di tutti i tempi. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.